Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 19 aprile 2015, record di contatti per Growed Planet, il social network italiano degli orticoltori casalinghi. I coltivatori casalinghi sono in forte crescita un po' ovunque e a questa crescita sta dando un forte contributo un social network nato in Italia che pian piano si è ricavato uno spazio importante. Si chiama Growed Planet ed è sempre più utilizzato per condividere idee, esperienze, consigli e per scambiare prodotti, attrezzi o sementi. Alla base c'è la passione verde di Gianni Gaggiani, grafico e blogger toscano, che dopo il buon successo di Flora Blog, nel 2011 ha lanciato Growed Planet, sostenuto dalla H-Farm Venture Incubator, che opera in ambito web, digital e new media. Nel 2012 il progetto ha incontrato l'interesse di Slow Food, che da anni porta avanti progetti formativi e didattici, oltre che culturali, per la diffusione degli orti a partire dalle scuole. Fin qui la notizia del 19 aprile 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Gianni Gaggiani, fondatore di Growed Planet. Sostanza un social network che si occupa della coltivazione degli orti, coltivazione di ortaggi è più corretto perché facciamo supporto anche per terrazzi, balconi, tetti e le nuove forme di coltivazione che si stanno via via andando a definire anche in ambiente urbano. Leghiamo ai classici strumenti dei social network altri strumenti che abbiamo elaborato, potenti, semplici, che seguono passo passo la coltivazione. Diamo la possibilità all'interno del sito di poter scambiare gli ortaggi all'interno della comunità. Quindi l'obiettivo è anche quello di costruire una comunità, ovviamente che poi abbia magari un riscontro anche sul piano locale, per far incontrare i coltivatori urbani in buona sostanza. Esatto, quello che ci interessa appunto è proprio partire dalla riproposizione anche in ambito del social network del concetto del chilometro zero. Noi in prima battuta proponiamo alla nostra utenza in sostanza una comunità chiusa all'interno di un raggio di 20-30 chilometri, in modo tale che in questo modo possano condividere sia le problematiche, il clima, problemi legati appunto alla situazione climatica, le stesse varietà che si coltivano da secoli nella zona e tutta una serie di opportunità che solo a livello locale si possono individuare. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.